gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito a niente. Niente, nemmeno una parola, l'accenno ad un saluto, ti dico arrivederci. Amore mio, nascondendo la malinconia dietro l'ombra di un sorriso. Cosa non darei per stringerti a me? Cosa non La musica è finita, gli amici se ne vanno e tu mi lasci solo più di prima. Un minuto è lungo da morire se non è vissuto insieme. La speranza di una vita d'amore. Un minuto è lungo da morire se non è vissuto insieme. La speranza di una vita.